Obbligo di frequenza di Maria Piera Ceci. 350.000 ragazzi, si stima il 5% della popolazione in età scolare. Sono gli studenti dislessici, disgrafici e discalculici che frequentano le nostre scuole. Molto spesso vengono scambiati per pigroni, per svogliati. In realtà ogni giorno, sedendosi sul banco, devono affrontare difficoltà enormi. Adesso però una legge è venuta in loro aiuto. In settembre è infatti stata approvata una legge che riconosce ai ragazzi che presentano disturbi specifici di apprendimento, perché così si chiamano in termini tecnici, tutta una serie di diritti. Ci racconta tutto Enrico Ghidoni, che è un neurologo e ha seguito per l'Associazione Italiana Dislessia l'iter di questa legge. L'aspetto positivo principale è che intanto è una legge, quindi a questo punto non si può più scappare. I diritti dei ragazzi con disturbi specifici di apprendimento a questo punto diventano un dovere da parte della scuola cercare di venire al loro incontro. E non è poco. E non è poco, certo, perché prima sembravano concessione di privilegi il fatto di dargli degli strumenti diversi di valutazione, oppure anche a livello didattico di fornirgli delle facilitazioni, sembrava quasi sempre di chiedere un privilegio, la concessione, eccetera. Perché altro che di privilegi hanno bisogno questi ragazzi, hanno bisogno di ausili, insomma. Esatto. Quali sono le novità principali di questa legge? Intanto il riconoscimento ufficiale dell'esistenza di queste difficoltà, di questi disturbi che insomma sono una realtà, ma che nella scuola italiana in qualche modo venivano ignorati, misconosciuti e così via. Poi la scuola viene tenuta in qualche modo proprio a cercare di individuare i casi sospetti fin dall'inizio, cioè addirittura si parla di cercare di individuare già nella scuola dell'infanzia quelli che sono a rischio per sviluppare una dislessia o un altro disturbo specifico di apprendimento. Poi c'è ovviamente il diritto a poter usufruire degli strumenti compensativi che li aiutano nell'apprendimento. Quali sono poi questi strumenti compensativi a cui le famiglie, a cui i ragazzi possono a questo punto chiedere di poter ottenere? Tanto l'utilizzo di strumenti informatici, che per i ragazzi con disturbi di apprendimento sono sempre una risorsa importante che li aiuta in molte occasioni. Strumenti informatici sono il computer per scrivere nel caso che uno sia disgrafico o disortografico, il computer sempre per ascoltare i testi digitalizzati mediante i programmi di sintesi vocale, il computer può essere utile per creare delle mappe concettuali che aiutano nello studio perché semplificano le attività di studio. Ci sono diversi altri strumenti compensativi, ma anche molto più banali, voglio dire anche semplicemente poter registrare una lezione per poterla poi ascoltare a casa con calma e studiare in questa maniera piuttosto che leggere il libro, è già uno strumento compensativo perché permette di bypassare il problema della lettura che per questi ragazzi è sempre molto faticosa. I tempi supplementari, diciamo così, cioè il fatto che per i compiti questi ragazzi hanno bisogno di più tempo, quindi anche durante le verifiche e gli esami dovrebbero poter avere una maggior quantità di tempo a disposizione per consegnare il loro compito. Quindi insomma adesso di fatto se io ho un bambino dislessico, disgrafico, discalculico eccetera, posso cominciare a pretendere tutte queste cose, queste belle cose che ci siamo detti? Certo, sicuramente. Guardi che in realtà già da un po' di tempo con le note ministeriali in qualche modo lo si poteva pretendere, però le note ministeriali sui provvedimenti compensativi eccetera non avevano ovviamente il valore di legge. Bisogna anche dire che per fare una didattica che va incontro alle esigenze dei singoli alunni ci sarebbe voluto una legge, no? Nel senso che un bravo insegnante lo capisce quello che bisogna fare col ragazzo che ha una difficoltà, bisogna andargli incontro, trovare i sistemi giusti per poter affrontare il problema in modo che lui riesca ad apprendere nonostante la difficoltà che ha. E invece spesso per vedere garantiti alcuni nostri diritti non basta il buon senso, la buona volontà, ma ci vuole proprio una legge e per fortuna in questo caso è arrivata. Lucia Jacopini vive a Fermo e ha due figli, uno in quinta elementare, dislessico, l'altro in seconda elementare con una dislessia al momento solo sospetta. Ci racconta la sua esperienza. Sì, il primo segno che una mamma nota, che a me è capitato di notare, è proprio il rifiuto di andare a scuola, l'aspetto emotivo, il ragazzino si sente, io vedo mio figlio triste, piange spesso, rifiuta la mattina di vestirsi, di andare a scuola, quasi dei tratti che possono far pensare a una depressione addirittura. Stiamo parlando del più grande o del più piccolo? Del più piccolo. Diciamo che il più grande, noi siamo arrivati alla diagnosi del più grande perché lui soffriva di continue emicranie, ma fortissime, che lo costringevano a casa per lunghissimi periodi. E abbiamo fatto le indagini, abbiamo scoperto che queste emicranie erano la conseguenza di uno stress molto grosso, molto alto, causato dalla richiesta scolastica. E quindi abbiamo attivato tutta una serie di percorsi, anche con le insegnanti, per vedere se allentando un po' le richieste, se alleggerendo un po' il carico, c'erano delle cose che per lui erano molto difficili, come copiare molte frasi, molte cose dalla lavagna, ricopiare spesso testi dalla brutta alla bella copia, fare calcoli a mente, c'erano delle cose che per lui erano veramente difficili e questo oltre al disagio causava in lui anche un malessere fisico, quindi un forte mal di testa. Sì. E poi siete riusciti a trovare il modo insomma per conciliare la dislessia con la scuola? È un po' difficile, non è sempre una strada in discesa, anzi, perché comunque io ho notato una difficoltà proprio da parte della scuola di adeguarsi un po' a queste novità che arrivano. Insomma, è un po' una scocciatura. È una scocciatura, delle volte ci sono dei pregiudizi, mi è capitato più volte che il ragazzino mi racconti, mi hanno fatto leggere per vedere se leggevo bene, cioè come se dovessero fare degli esperimenti ogni tanto, no? Per vedere se veramente legge male, oppure ecco, questo è successo proprio due giorni fa, l'insegnante del mio figlio, quello più grande, l'ha chiamato alla lavagna per interrogarlo sulle tabelline, sul calcolo orale, che è proprio il punto dolente. Certo, è il punto dolente, chissà che è brutto anche sentirsi mettere sotto esame e sì, sapere di non essere poi all'altezza. Sì, ecco, gli aspetti sono due. Uno è la richiesta della scuola che quando è un po' più una richiesta sull'aspetto mnemonico e nozionistico è penalizzante per il ragazzino. Poi il confronto con gli altri perché lì dipende un po' da come si gestisce il clima della classe e se si basa un po' il rapporto fra compagni sull'essere uguali, l'essere tutti allo stesso modo, chiaramente chi apprende in modo diverso spicca, diciamo, nel gruppo e quindi viene un po' additato. Nel caso del mio figlio più piccolo, lui non ha una diagnosi di dislessia, ma quando devono copiare tutti dalla lavagna, lui rimane indietro, si dispiace, piange e l'insegnante purtroppo delle volte interviene con esortazioni pesanti, sicuramente per bene, per volerlo in qualche modo aiutare a sbloccarsi, però chiaramente se lui non ce la fa non è che gridandogli contro dai su sbrigati il problema si risolve, lei mi capisce che... Benvenuta dunque alla legge che è stata approvata appunto di recente e che invece garantirà anche ai suoi figli degli strumenti compensativi per le loro difficoltà. In realtà io le avevo chiesto anche prima della legge. Perché noi comunque... mamme non aspettiamo di certo delle leggi per cercare di aiutare i nostri figli. Però devo dire una cosa, io ho notato subito dopo la legge che c'è stata un'accelerazione, cioè alla mia domanda di produrre un piano didattico personalizzato, mentre l'anno scorso non c'è stata proprio risposta, quest'anno sembra che si siano attivati. Da Fermo ad Arcugnano nel Vicentino, Laura Ceccon ha un ragazzo di 11 anni. Anche per lui e la sua famiglia non è stato facile farsi riconoscere il diritto a studiare in maniera diversa. Allora, noi ce ne siamo accorti fortunatamente in prima elementare, quindi molto presto. È stato merito comunque nostro dei genitori, nel senso che appunto la scuola non aveva assolutamente riconosciuto il problema, però in questo modo siamo comunque potuti intervenire immediatamente con attività. Perché il bambino faceva fatica a imparare a leggere e a scrivere? Il bambino faceva molta fatica e aveva un rifiuto nei confronti di qualsiasi tipo di attività e proposta scolastica, quindi si era chiuso a riccio in se stesso e quindi aveva anche, oltre alla difficoltà di leggere e scrivere, aveva anche tutta una serie di problematiche, diciamo così, di carattere, di emotive, psicologiche, che gli rendevano la vita veramente difficile, insomma, e di conseguenza anche a noi genitori. E la risposta della scuola qual è stata? Ma la risposta della scuola non è stata molto positiva, tanto che noi poi abbiamo cambiato in seconda elementare, abbiamo fatto un'altra scelta, abbiamo cambiato proprio scuola e lì invece è stata presa, diciamo, in considerazione questa difficoltà di nostro figlio e sono stati messi in atto tutti gli accorgimenti, anche se comunque il percorso è stato abbastanza faticoso perché gli insegnanti non sono poi così propensi a personalizzare in maniera così chiara e precisa l'attività didattica. Insomma, però per loro è una fatica in più dover applicare comunque diversi metodi a seconda del per venire incontro a questa difficoltà dei ragazzi. Sì, per loro è una difficoltà in più e poi anche non c'è una grande competenza da parte della scuola. Però poi alla fine, insomma, comunque mio figlio è riuscito ad introdurre il computer già dalla fine della quarta elementare. Ovviamente abbiamo fatto un grande lavoro in famiglia. Quindi con l'introduzione appunto di tutti gli strumenti compensativi, però abbiamo anche sensibilizzato nel contempo la scuola, insomma siamo riusciti comunque ad avere un percorso formativo ed educativo di successo per nostro figlio, è uscito dalla quinta elementare con un'ottima pagella e con soprattutto anche un'autonomia acquisita in tutte le attività scolastiche, quindi nella lettura, nella scrittura e in tutto il resto. E adesso vostro figlio non si sente diverso dagli altri? No, non si sente diverso dagli altri perché lui sa che questa sua difficoltà non è una disabilità, è semplicemente un suo modo di essere e ovviamente non è facile per un bambino accettare, però comunque lavorando molto anche da un punto di vista psicologico, lui è riuscito a accettare in un certo senso questa sua differenza e non si sente diverso perché anzi viene, diciamo, valorizzata la sua competenza, la competenza che ha acquisito anche in ambito informatico, fa tutto quello che fanno gli altri compagni, lo fa solo in un modo diverso, ma d'altra parte siamo tutti diversi. È tutto, un saluto da Maria Piera Ceci.